Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera e benvenuti a Mr. Kilowatt, io sono Maurizio Melis e stasera ci occuperemo di bioetanolo. Si tratta di un alcol di origine vegetale che, come noto, può sostituire del tutto o in parte la benzina. Attualmente la normativa prevede che possa essere miscelato alla benzina nella proporzione del 5%, un valore che però è destinato a crescere. In Italia siamo molto indietro da questo punto di vista, anche perché si è scelto di puntare su un altro biocombustibile, il biodiesel, di cui peraltro ci occuperemo in futuro. Ma è venuto il momento di presentare l'ospite di stasera. Si tratta di Vitto Pignatelli del gruppo Sistemi Vegetali per Prodotti Industriali dell'Enea e anche uno, direi, dei principali esperti europei del tema. Buonasera Pignatelli. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta, diciamo subito che questa è la prima di due puntate che dedicheremo al bioetanolo, perché è un settore nel quale ci sono delle importanti novità in arrivo. Direi, cominciamo a spiegare proprio da dove viene fuori il bioetanolo, come si produce, insomma. Beh, attualmente il bioetanolo, come è noto, si produce in diversi paesi del mondo e fondamentalmente da tre tipi di materie prime. Si produce innanzitutto dalla canna da zucchero, il maggior produttore è il Brasile, che è anche il maggior esportatore di etanolo sul mercato mondiale. Si produce dai cereali, soprattutto dal mais, ed è quella la strategia seguita essenzialmente dagli Stati Uniti, ma anche da molti altri paesi europei, e in misura minore, e soprattutto per quel che riguarda alcuni paesi europei come Francia e Germania, si produce la barbabietola da zucchero. Ecco, quando diciamo si produce, di che processo stiamo parlando? Parliamo di una fermentazione, come la birra, stiamo insomma. Parlando della classica fermentazione alcolica, il processo che viene utilizzato per produrre il vino, la birra o le altre bevande alcoliche, è esattamente lo stesso. La differenza è nella destinazione del prodotto. In questo caso si cerca di arrivare ad un concentrato con la maggior quantità possibile di etanolo, che poi viene distillato, sottoposto a un altro processo che si chiama nitrificazione, cioè eliminazione di ogni minima traccia di acqua, e una volta nitrificato prende il nome di bioetanolo e viene utilizzato come combustibile nel settore dei trasporti. D'accordo. Diciamo che la questione del bioetanolo ha avuto momenti di grande, come dire, entusiasmo, ai quali sono seguiti momenti di depressione, soprattutto per il fatto che, insomma, c'è un problema etico di fondo, soprattutto negli Stati Uniti, appunto, e cioè che si utilizzano materie alimentari, perché servono gli zuccheri, altrimenti sti batteri non sanno come fare. È vero, le materie prime, tutte quelle materie prime di cui parlavo prima, sono prodotti agricoli che vengono tradizionalmente coltivati per destinazioni alimentari. Ed è quindi evidente che, trattandosi degli stessi prodotti, primo ci sono questioni economiche, cioè i prezzi dell'etanolo sono legati ai prezzi di questi prodotti sul mercato, che sono a loro volta legati a una serie di fenomeni di richiesta o di scarsità o di speculazione, e comunque non è indifferente l'uso di questi prodotti per scopi energetici nel quadro più generale dei certo. prezzi. Si crea una competizione fra l'utilizzo energetico e l'utilizzo come risorsa alimentare, certo. che ovviamente va a discapito di chi ha difficoltà a procurarsi le risorse alimentari, cioè certo. di chi, come dire, non ha superato, si è lasciato alle spalle i problemi della sussistenza. Quindi, insomma, ci impone un problema etico piuttosto forte. Ecco, un'altra caratteristica che vale la pena forse solo di accennare, però, sono le dimensioni di questi impianti. Sì, gli impianti per la produzione di etanolo sono impianti che risentono fortemente di quelle che si chiamano economie di scala, cioè più l'impianto è grande, minore è il prezzo e il costo finale di produzione dell'etanolo, quindi si tende a fare impianti sempre più grandi, soprattutto perché la produzione di etanolo è una produzione che richiede molta energia. Certo, ecco, questa grande scala tra l'altro non favorisce la diffusione in Italia, perché qui abbiamo una difficoltà per proprio come è fatto il nostro territorio, per il fatto che abbiamo tante piccole aziende agricole, insomma, sia raccogliere, credo, la materia prima, sia appiazzare lo stabilimento. Certo. Questo è vero, la dimensione media di uno stabilimento di produzione di etanolo, ecco, va dalle 100 alle 200 mila tonnellate di etanolo prodotto anno, che vuol dire 200, 300 mila o anche più tonnellate di materia prima. Per un sistema agricolo come quello italiano, riuscire a mettere insieme anche solo una parte di questa materia prima fra migliaia di produttori è una cosa difficile, non impossibile, perché noi modelli di agricoltura industriale ne abbiamo avuti, basti pensare al sistema bieticolo saccarifero, dove migliaia quindi di all'industria dello zucchero, che guarda caso zucchero, c'entra certo, molto in questo caso, che c'entra molto in questo caso, dove lo zuccherificio, che richiedeva centinaia di migliaia di tonnellate di materia prima, metteva insieme migliaia di produttori. Da questo punto di vista abbiamo detto per esempio che la canna da zucchero in Brasile è molto efficiente, mentre il mais non lo è. In Italia si potrebbero introdurre delle colture adatte allo scopo? Sì, in Italia sono state fatte attività di ricerca e anche prove su scala dimostrativa, cioè di impianti industriali. Alcune di queste culture, come il sorgo zuccherino nel sud, o più ancora, o meglio ancora, il topinambur, sono radice. Culture, sì. È una pianta che cresce molto bene in terreni poveri, con scarsità di acqua, particolarmente adatta alle regioni del Mezzogiorno d'Italia, ed è in grado di accumulare grandi quantità di zuccheri nei fusti. Va bene Pignatelli, io la fermo qui, torniamo però a parlare di bioetanolo domani, parleremo infatti del cosiddetto etanolo di seconda generazione, che pare però essere ormai prossimo alla maturità tecnologica. Si tratta appunto di un settore molto interessante per il nostro paese. Grazie Pignatelli. Arrivederci. Grazie a tutti gli ascoltatori, a domani.